Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, nelle ultime puntate di Personal Best abbiamo corso, diciamo così, idealmente in pista con il velocista azzurro Davide Re, poi abbiamo corso tra deserto e ghiaccio con l'ultrarunner Michele Graglia e oggi torniamo a correre sulla strada, quello insomma che piace a noi, con il maratoneta azzurro Yassin Rashik. Benvenuto. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Come stai? Bene, bene, grazie. Yassin, noi ci siamo sentiti qui a Radio 24 lo scorso anno per commentare l'impresa di Eliud Kipchoge a Vienna, un 2019 che per quanto ti riguarda invece ti ha fatto fare, possiamo dire, un salto di qualità definitivo con quel 2 ore 8 minuti e 5 secondi alla London Marathon e il 12° posto, ricordiamo, ai caldissimi mondiali di Doha. Yassin, poi cosa è successo? Dopo i campionati mondiali, che comunque mi sono espresso bene, anche se ho avuto un problema fisico, una lesione sulla bandella teleotibiale che mi ha un po' fermato, perché ho avuto degli infortuni. Praticamente io ai campionati mondiali ci ho corso con una lesione. E quindi questo ti ha portato altri infortuni, questa lesione? Sì, praticamente questa lesione con cui ho corso, sai, facendo una maratona a 42 km con una lesione, mi sono un po' sbilanciato troppo, ho avuto un'infiammazione del polpaccio, l'infiammazione della guaina del piede, cioè ho avuto un po' di tutto, l'infiammazione del tendine d'Achille, infiammazione della fascia plantare, insomma. Ah, stiamo facendo tutto, l'elenco di tutti i possibili infortuni che può avere un runner, diciamo. Guardi, stai? E adesso come stai? Quando è che potrai ricominciare a correre? Adesso siamo proprio in fase di guarigione perché manca solo l'infiammazione della fascia plantare. Speriamo che mi passa il più presto possibile con le cure che sto facendo. Anche perché ti posso dire che tutti gli infortuni che ho avuto adesso non li ho mai avuti in vita mia, cioè proprio tutti di fila, tac. Speriamo che te li sia tolti tutti di torno, tutti insieme. In modo tale da... lo spero anch'io, perché prima quando qualcuno mi diceva io ho avuto un'infiammazione del tendine, che io non sapevo neanche cos'era sta roba qua, non l'ho mai provata. Adesso che ho provato tutti sti cose qui, guardi, è meglio di non farsi mai male. Ma sei completamente fermo, quindi, sì? No, adesso sto, cioè, più o meno, perché alla fine io sono un po' con la testa dura, no? Cioè, non riesco a stare fermo del tutto. Magari prima mi stava un po' passando da qualche problemino, iniziavo a correre, poi man mano le cose peggioravano, non posso che migliorare, e quindi non va bene. Allora adesso abbiamo deciso, con lo staff e tutte le persone che mi seguono, che ringrazio molto, abbiamo deciso di fare solo la tecnica e il potenziamento, in modo che io quando rientro farò meno fatica, anche perché è l'unica cosa che posso fare adesso. Aspettare, diciamo. Fare un po' il potenziamento, la tecnica e aspettare. Ma dal punto di vista dell'atleta Rashik è stata una quarantena meno sofferta perché eri comunque fermo? O ti è mancato qualcosa comunque? Ma io intanto ti posso dire che questa quarantena qui l'ho passata solo tra i medici, quindi era l'unica cosa che potevo fare in quel periodo. Ok. Beh, diciamo che ti ha accolto proprio nel momento giusto, nel senso che comunque tutti erano fermi e quindi da una parte meglio, così non si poteva correre. Sì, hai ragione. Poi era l'unica cosa. Ti ha parlato positivo. Infatti, era l'unica cosa che potevo fare è andare dai medici. Infatti, io accoglievo la scusa per andare dai dottori. Avevi una scusa per uscire, quantomeno. Quindi, Yassin, possiamo dire che sei stato l'unico che ha, insomma, festeggiato in qualche modo per lo spostamento delle Olimpiadi del 2021. Ma per me sì, veramente. Guarda, quando l'ho sentito, perché ho saputo la notizia qualche giorno prima che uscisse ufficialmente, sono stato contento perché ho detto finalmente posso allenarmi, cioè dopo un periodo di sfiga arriva anche un po' di fortuna, cioè perché sai, per me l'Olimpiadi è la gara più importante, cioè il sogno di qualunque atleta, cioè per me fare l'Olimpiadi è un sogno. E non poterci neanche provare magari. Sì, dovrei riprovare tra 4 anni, poi tra 4 anni avrò 31 anni, quindi meno male, inizio a dire adesso sei già vecchio, quindi alla fine va bene adesso. Ma sai che per i maratoneti diciamo che va benissimo, insomma si può correre sempre, insomma fino a meno 40 anni si è giovani per fare una maratona. Ma infatti, vabbè, sì, ma per secondo me c'è questa mentalità qui che tutti dicono adesso la maratona, non dicono, anzi la maggior parte ragiona in questo modo, dicono che la maratona bisogna farla da 33 anni, 35 anni in su, in modo che puoi correre fino a 40 anni. Ma io dico, se riesco a raggiungere i miei obiettivi prima di 40 anni, sarò contento anch'io. Giustamente. Cioè, perché devo aspettare fino a 40 anni? Quant'è la voglia di riprendere a correre, Yassine? Ma guarda, ti posso dire che la voglia è veramente tanta, e per me tornare a correre è la cosa che mi soddisfa, è la cosa che mi rilassa anche a livello mentale, e non vedo l'ora di iniziare a correre, perché tutto questo periodo in cui sono stato fermo abbiamo cercato di capire su tante cose in cui magari sbagliavamo, sulla tecnica, sul potenziamento, su tantissime cose che magari prima gli dedicavamo del tempo, ma veramente poco, anche perché sai, la maratona devi correre, devi fare chilometri su chilometri, quindi queste cose qua le facevamo, ma non abbastanza, cioè facevamo il giusto, diciamo. E quindi è stato per me questo periodo, abbiamo iniziato a migliorare tutti questi cose qua, in modo che quando mi riprendo so che devo, prima mi allenavo magari 2-3 ore al giorno, adesso so che devo investire anche un'ora in più per poter fare un po' tutto, e lo farò più che volentieri, insomma. Sarà difficile per te riprendere piano piano, però, perché sarà talmente tanta la voglia di correre che immagino che il primo giorno vorrai fare subito 20 chilometri. Invece, insomma, la regola è che a riprendersi dopo un infortunio bisogna stare attenti, quindi riprendere piano piano. Guarda, questo è l'errore che ho fatto sempre fino adesso, perché in questi 6-7 mesi in cui sono stato fermo, magari correvo una volta no, ho sempre corso a 4, cioè per dirti a 4 al chilometro. Cioè io non ho neanche provato a correre tipo a 4.30, 5, anche se il mio allenatore e tutte le persone che mi seguono mi dicono no, Yassine, tu devi iniziare piano a 4.30, devi correre sull'erba. Io non lo so, cioè dopo magari il primo giorno vado a 4, dopo un po' dico adesso faccio magari 2-3 chilometri in più, mi sento un po' bene, e poi magari mi spacco ancora, cioè, sai, perché diventa una cosa... Cioè non riesci a crederci, cioè, perché prima magari correvi forte e poi dopo dici come faccio adesso ad andare piano, cioè, pensa che problema, pensa il problema trattenersi, quello che facciamo noi. Fai il classico errore dell'amatore praticamente, del runner della domenica, diciamo così. Ma come fai a non sbagliare, perché la corsa è la droga, cioè come fai a non sbagliare, scusami, io penso che siamo tutti umani e alla fine la realtà è questa, come fai a non sbagliare. Poi magari c'è quello che dice, no, sì, bisogna fare. Poi quando sei lì devi correre, non ti ricordi più niente di nessuno. Vai e basta. Yassine, facciamo un passo indietro, perché insomma il tuo nome tradisce un po' le tue origini, no? Qual è la tua storia personale anche di atleta? Ma la mia storia è veramente un po' particolare, perché come sanno in molti, io nel 2004 sono venuto qui in Italia grazie a mio papà, perché era già qui in Italia, lui era venuto nel 1889. Dopodiché... E l'abbiamo raggiunto con il congimento familiare dal Marocco e dopodiché nel 2008 ho iniziato a correre così per caso, sai, le gare che si fanno con le scuole, queste cose qua, e da lì è iniziata la mia passione per l'atletica, insomma per la corsa. E subito quindi hai capito che era la tua strada da percorrere? Ma all'inizio non ero tanto convinto, cioè non è che non ero convinto, perché in Marocco facevo il karate. Poi quando sono venuto qui, tutto diverso, cioè facevo un'altra vita diversa. Poi quando sono venuto qui ho avuto la possibilità di conoscere l'atletica, di conoscere un po' l'ambiente, e mi sono innamorato, sai, come dire, quando vede la prima donna e ti colpisce, è stata più o meno la stessa cosa. Quando hai iniziato, quando hai deciso di buttarti sulla maratona invece? La maratona, probabilmente abbiamo fatto la stessa maratona, probabilmente, no? La maratona di Milano. Ah beh, sì, sicuramente, un po' ne abbiamo fatte di maratona di Milano. sì, perché ormai, allora io nel 2016 in cui mi sono fatto male ai campionati italiani, dove mi hanno messo 13 punti sulla caviglia, da lì ho detto basta, io con la pista non ci voglio più tornare, cioè non ho più, da lì ho detto voglio cambiare tutto e ho detto boh, mi voglio buttare sulla maratona. Allora in quell'anno lì ho deciso di andare a fare una nuova esperienza, proprio guarda, è tutto il destino, perché proprio così all'ultimo mi ha chiamato un mio amico in Olanda dicendomi: guarda Yas, devo fare questa maratona e mi sono saltati le lepre, se puoi venire a darmi una mano alla maratona di Amsterdam. Allora io, anche se ero un po' indeciso, ho detto: guarda, vengo, perché mi ha avvisato il mercoledì e mancavano 3-4 giorni. E allora sono andato in questa maratona e lui mi ha detto: guarda, tu mi devi aiutare solo fino a 25 km, in cui mi dai una mano. E quello è stato, diciamo, il passaggio importante per me a farmi capire che posso fare la maratona, o posso fare veramente tanto solo la maratona, perché quando siamo andati e siamo partiti, le sue lepre sono tutti... Non ho capito cosa è successo. Tutti e quattro si sono fermati. Mi sono trovato solo io e lui. Allora lui mi diceva, mentre correvamo, Yassin, guarda che se ti fermi prima di 25 km, io mi fermo con te. Allora, cioè, per me, quindi mi sono sentito una responsabilità di questo ragazzo, perché alla fine capisco che è una persona che si è allenato veramente tanto, e per arrivare a un obiettivo, per arrivare in forma in quel giorno lì, quindi per lui dare il massimo, penso che sia la cosa migliore. Allora mi sono trovato lì in cui gli ho tirato 32 km a 3,05 di media. Però, ma poi Ma dopo poi ti sei fermato o comunque l'hai conclusa lo stesso? mi sono fermato perché non era il mio obiettivo di finire la maratona, anche perché la settimana prima ho fatto due gare di fila, sabato e domenica. Quindi per me, ma però ti posso dire che è stata una sensazione buona. Boh, io quel giorno lì, anche se ho tirato lui 32 km, mi sentivo veramente bene. Cioè, secondo me la maratona la potevo già finire quel giorno. Però, sai, in mente non avevo le borracce, non avevo un po' tutto organizzato, quindi fare una maratona dal nulla Sì. Poi non era il massimo. sappiamo che gli ultimi 10, insomma, non sono come i primi 30, Eh insomma, sì, ma però di hai chilometri. ragione, ma però io penso che la maratona, è vero, poi sai, noi magari nella nostra testa ci mettiamo dei limiti, però sai, quando fai qualcosa e non te l'aspetti, non l'hai programmata, magari ti esce anche bene, cioè boh, può Sì, ma darsi, infatti non le lo so. gare migliori dicono che sono quelle che hai preparato un po' meno, no? Ah, di solito è così, perché sai, magari non te l'aspetti, anche a livello di tensione, magari non sei teso, C'è meno quindi c'è meno pressione, sì. pressione, anche con i giornalisti, una cosa e l'altra, nessuno si aspetta niente da te. Invece quando la gente sa che tu vuoi correre, tutti magari aspettano il risultato, sai, ovviamente è normale. Sì, è vero. E poi da quell'anno lì ho detto, boh, io mi voglio buttare alla maratona. E abbiamo deciso di fare l'esordio alla maratona di Milano, in cui abbiamo sentito l'organizzazione, sono stati disponibili, ci hanno messo anche delle lepre personali in modo che potevano aiutare, e ho fatto la mia prima maratona, diciamo, che dove ho corso in 2 ore e 13. Per me è stato un risultato che mi ha soddisfatto, insomma, anche Eh beh, perché sai, è insomma, stata la come prima. prima maratona esordire così con 2 ore e 13, insomma. È stato un buon esordio. Infatti, tornando ad oggi invece, hai festeggiato per il record italiano di Faniel, 2:07:19 alla maratona di Siviglia? Ah, sì, alla fine è stato bravo, alla fine ha fatto il suo dovere, i record italiani sono stati fatti per essere battuti, e giustamente gli faccio i miei complimenti da atleta e da sportivo che ama lo sport. Tu ci sei andato vicino, diciamo che il tuo prossimo obiettivo potrebbe essere quello, no? Di battere il record italiano. Ah, sinceramente, il record italiano penso che io fino adesso la maratona l'ho fatta perché fino a qualche anno fa, anzi fino a poco fa, io ho sempre corso per vincere, cioè a tutte le gare che ho fatto, le ho fatte per vincere, non sono mai andato a cercare il record. Sì. Perché per me le vittorie, tipo come la medaglia di bronzo ai campionati europei sulla maratona, per me quello vale più di un record Ah italiano. beh, sì, Vabbè, ah giustamente, no? Perché certo. molte volte ci si sofferma sul tempo, ma in realtà poi bisogna vincere le gare. Bisogna Infatti. anche fare, per me conta molto anche quello, per me quello già vale molto, perché comunque magari una medaglia ai campionati europei ti rimane sempre sul curriculum. Ovviamente un record italiano può essere battuto. Ah beh, certo, sì. Tra l'altro tra un po' sarete compagni di squadra, no? Perché poco prima del lockdown sei stato chiamato dalla polizia per entrare a far parte del gruppo. Più o meno siamo già colleghi, perché abbiamo già vinto il concorso, solo che dobbiamo concludere questo concorso e spero più presto possibile. Quindi sei entrato nei professionisti. Finalmente posso dire che sono professionista anch'io. Sei grande, dai. Dopo un po' di anni va bene. È un po' una modalità italiana, no? Dopo questo, bisogna entrare in un gruppo sportivo per diventare un professionista, diciamo. Sì, e poi alla fine diciamo che io sono diventato adesso un professionista che quando magari ho raggiunto tutti i risultati buoni e quindi per me è una cosa che mi senta anche bene, anche soddisfatto di quello che ho fatto e diciamo un premio per la mia carriera sportiva. Alcuni dicono che una volta entrato in un gruppo sportivo, insomma militare, così ci si rilassi un po' e si perde un po' la motivazione. Io penso che nel mio caso ho già dato anche prima e ho dimostrato che non mi sono mai lasciato andare, anche perché io sono, non, oltre che corro per la passione e tutto il resto, io sono una persona che, perché una cosa, cioè quando faccio una cosa mi piace farla bene, cioè io si corro piuttosto cerco di esprimermi, cerco di fare di tutto per guarire, cerco di dare il massimo, cerco di investire tutto quello che posso, perché per me la corsa è un, oltre che la mia passione, è un lavoro, quindi è giusto che io dedico tutto il tempo necessario per poter esprimermi. Poi ci sono magari quelli, come hai detto prima, che magari entrare in un gruppo sportivo, per loro l'obiettivo è raggiunto, anzi per me entrare in un gruppo sportivo vuol dire che si parte da lì, diciamo, sei pagato con i contributi delle persone che magari lavorano, cioè, anzi delle persone che lavorano, delle persone che investono tutto il loro tempo e tutto, quindi per me alla fine percepisco anche uno stipendio, è giusto che io lo devo meritare fino all'ultimo centesimo. Sì. No, ma infatti la mia è un po' una battuta, perché credo non ci sia pericolo, perché insomma sarei circondato dai più forti mezzofondisti italiani del momento, quindi Faniel, Crippa, insomma, poi alla fine, anzi sarà uno stimolo in più forse. Poi per me alla fine, come hai detto prima, alla fine sono tutti atleti forti, alla fine sai c'è anche la concorrenza, alla fine siamo anche avversari, cioè oltre che facciamo parte dello stesso gruppo sportivo che è la Polizia di Stato, siamo anche avversari, quindi alla fine tutti vogliamo dimostrare che siamo i più forti, tutti vogliamo dare di più, quindi insomma è il gioco, è così e va bene, insomma. E invece per quest'anno sei ancora nella starting list della London Marathon, no? Che è stata spostata da aprile al 4 ottobre, maratona tanto attesa, oltre che per il tuo ritorno, diciamo così, per la sfida tra i due campioni Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele. Nel caso correrai un po' con loro? Guarda, ti posso dire, come hai detto prima, ho avuto la sfiga, ho avuto anche la fortuna, perché nonostante che io magari mi sono fatto male, eccetera, eccetera, dopo i campionati mondiali, non mi sono mai tolto dalla start list, perché ero sempre fiducioso con tutti i medici e il gruppo della Brianza Sport Salute, con il doc Rodolfo Malberti, che sono di Monza, e oltre il mio massaggiatore Michele Caldara, tutta questa gente che, di cui sono circondato. Siamo sempre stati fiduciosi, quindi abbiamo detto rimaniamo intanto sulla start list, in modo che appena guarisco riproviamo a partire per fare la maratona di Londra. Londra. Poi è successo tutto il casino, quello che è successo, ho avuto la possibilità, perché l'organizzazione mi ha detto guarda Yas, visto che è successo queste cose qua, per noi ci teniamo alla tua presenza e vogliamo che tu ci sia alla maratona di Londra, quindi sono rimasto alla start list e mi sono trovato già iscritto alla maratona di Londra a ottobre, che tra l'altro magari anche gli altri miei colleghi magari non sanno dove corrono, almeno io ci diciamo sono un po' vantaggiato, un punto fermo, tra diciamo. L'altro mancano quattro mesi qualcosa, quindi magari riesci comunque a prepararla. Io penso di riuscire a prepararle, perché alla fine magari non sarò in grado di poter fare il record italiano, di poter fare magari 2:07 o 2:08, ma però penso di fare 2:09, 2:08 alto, 2:10, se mi alleno 4 mesi, penso di sì, dai, spero. Oppure di battere Kipchoge e Bekele, insomma. Sì, questo è il sogno, si realizzerà prima o poi nel sogno. Yassine, per chiudere, tu sei nato in Marocco, come abbiamo detto, e sei italiano a tutti gli effetti dal 2015. Cosa vuol dire per te indossare la maglia azzurra? Ma come ho detto prima, per me è stata, perché anche per prendere la cittadinanza italiana, per me è stata una bella battaglia, perché come sanno in molti non è stato così facile per me diventare italiano. Io correvo, potevo vincere i campionati italiani, ma non potevo rappresentare il paese dove sono cresciuto, che è l'Italia. Non potevo correre all'estero come italiano. Alla fine, quando andavo all'estero, correvo le gare da marocchino perché non avevo la cittadinanza italiana. Poi, grazie all'intervento del Presidente della Repubblica nel 2015, in cui mi era stata data la cittadinanza, e da lì sono iniziate a aprirmi tutte le porte, e da lì ho iniziato a esprimermi, e anche era un motivo in più per poter ancora dare il massimo. Insomma. E quindi è sempre una bella emozione, insomma, la maglia azzurra, in qualche modo, ancora di più. Ma guarda, correre, ma per me è un'emozione unica, anche perché se non era un'emozione non avrei corso il campionato mondiale con la Lizzone. Non avrei fatto 42 chilometri così, in quel senso lì. Però, per dirti, per me correre con la maglia azzurra è una carica in più, perché oltre che correre con la maglia azzurra portiamo il nome dell'Italia sulla nostra maglietta, proprio vuol dire che dobbiamo dare il massimo anche per le persone che ci sostengono, per le persone che ci guardano, per le persone che tifano per noi. Insomma, quindi è una responsabilità veramente, veramente enorme. Non puoi sbagliare. Grazie mille, allora, Yassin. A presto e in bocca al lupo, allora, per tutto. In bocca grazie al lupo. Grazie mille, vi ringrazio. Grazie mille a voi. E anche per oggi è tutto. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15. Poi, quando volete, ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.